Se uno scorre il Vangelo alla ricerca dei brani in cui Gesù invita a pregare, resterà stupito di trovare che l'invito più ripetuto è quello di pregare tanto, di pregare senza stancarsi, come il Vangelo di oggi di Luca, capitolo 18. Il Signore Gesù disse ai discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi, dice il giudice, che non aveva riguardo per nessuno, neanche credeva in Dio, di fronte a una povera vedova che però continuava a scocciarlo e a dirgli fammi giustizia, alla fine cede e Gesù dice se quello ha ceduto per l'insistenza di questa donna, come volete che Dio non faccia giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ecco, questo è il testo. Io sento però di dire una parola su questo, perché ho incontrato gente, più di una persona, che non solo non prega più, ma neanche va più in chiesa perché dice: ma io mi sono fidato della parola del Vangelo di chiedere, chiedere, chiedere, chiedere. Io ho chiesto anche cose belle, importanti, non utili, ma per l'anima, per la salute dei miei cari e non ho ottenuto. E allora qualcuno dice: lascio andare tutto come va. Oppure qualcuno. Ho visto che pregava con una decisione così forte che mi diceva: il Signore deve farmi questo miracolo, me lo deve fare. Quasi che dicesse, non lo diceva, ma quasi che dicesse me lo deve fare per forza. Perché io chiedo, chiedo, chiedo. Allora io gli ho detto: guarda, è bella questa tua insistenza, è evangelica, però se posso vorrei metterti sull'avviso che non puoi pretendere. Perché se tu pretendi e poi il Signore non ti fa quello che tu chiedi per motivi suoi, perché Lui ritiene così, c'è il rischio che tu perdi la fede e tu ti arrabbi contro Dio. No, no, no, io ottengo questo. Eppure la mia delusione, il mio stupore è stato tale che tempo dopo ho sentito che questa persona aveva tentato il suicidio, proprio perché non aveva ottenuto questo. Cari amici, noi siamo veramente servi inutili. Noi dobbiamo fare la nostra parte, tutta la nostra parte, con insistenza. Noi dobbiamo chiedere, certamente sicuri che il Signore ci ascolta. Ma non è detto che se ci ascolta però ci esaudisce. Ascolta la nostra preghiera e da qualche parte finirà nel suo cuore questa nostra richiesta, ma non è detto che ci esaudisca in quello che noi chiediamo. Stiamo attenti, amici, perché Dio fa la sua volontà per il nostro bene. Dio è libero. E non c'è nessun tipo di preghiera, mi fanno sorridere certi manualetti, preghiere per ottenere certamente la guarigione, preghiere a cui è impossibile che Dio non risponda, preghiere, oh Signore, abbi pietà di noi, abbi pietà di noi, insegnaci a pregare alla maniera evangelica, noi crediamo che tu ci ascolti. Crediamo che tu ci esaudisci, ma secondo il tuo disegno. Donaci che né noi, né amici nostri, siamo mai delusi dalla nostra preghiera che non è esaudita secondo la nostra ottica. Non permettere mai, oh Gesù, non permettere mai che perdiamo la fede, che cadiamo nella delusione. Che cadiamo nell'apatia per una preghiera fatta pretendendo, più che fatta con umiltà, e così sia.